cercami, nelle strade del mondo cercami. Sono figlio del sole e figlio dei fiori. Cercami, ti regalo il sorriso che non hai. Sono figlio del vento e figlio di questa terra che piange, piange, piange per queste atrocità. Quanta violenza, quanta ipocrisia. Dirindam, dirindam, dirindam, dirindam. Dirindam, dirindam, dirindam, dirindam. Quando finirà questo odio che ferisce? Quando finirà questa guerra che uccide? L'indifferenza porta malvagità. E tu abbassi gli occhi alla verità e alla gente senza libertà. Sono figlio della pace e non mi arrenderò. Cercami, figlio del mondo, figlio del mondo. Cercami, figlio del mondo, figlio del mondo. Cercami, figlio del mondo, figlio del mondo. Cercami, figlio del mondo, figlio del mondo. Stelle, cercami, ti regalo carezze che non hai. Sono figlio del bene che combatte il male. Trovare orizzonti senza frontiere, andare liberi nella libertà. Quando finirà la persecuzione sui popoli? Nessuno al mondo deve essere torturato. Quando finirà questa sofferenza sulla gente? L'egoismo alimenta volti non veri. E tu che bussi al cuore, colpiti senza un perché da questa umanità. Sono un figlio ferito di storie crudeli. Cercami, figlio del mondo, figlio del mondo. Cercami, figlio del mondo, figlio del mondo. Cercami, figlio del mondo, figlio del mondo. Dirindam, dirindam, dirindam, dirindam. Dirindam, dirindam, dirindam, dirindam. Dirindam, dirindam, dirindam, dirindam. Dirindam, dirindam, dirindam, dirindam. Dirindam, dirindam, dirindam, dirindam.